A Bordo Campo di Dario Ricci. La musica dei Red Hot Chili Peppers, la famosa Can't Stop, quella che Alinghi aveva trasformato a Valencia nel proprio inno di vittoria. Già bastano questi pochi riferimenti per capire che oggi a Bordo Campo parliamo di Coppa America con la memoria. Eravamo rimasti a Valencia 2007, la grande edizione vinta appunto dagli svizzeri di Alinghi, detentori del trofeo, vincitori delle ultime due edizioni contro New Zealand, grandi emozioni, grande fascino. Ebbene, quella Coppa America però in un paio d'anni è ora in cattive acque e in alto mare. Allora ne parliamo oggi con un ospite, Francesco De Leo, presidente di Greencom Challenge, il team italiano che lancia la sfida alla prossima Coppa America. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi e buongiorno ai vostri radioascoltatori. Allora, dottor De Leo, situazione un po' complicata quella della Coppa America, perché dal grande spettacolo di Valencia, dal pubblico, dalle emozioni, si è passato alle aule dei tribunali in una lunga diatriba tra i detentori di Alinghi, gli svizzeri di Alinghi, il consorzio guidato da Ernesto Bertarelli, e gli americani di Oracle guidati dall'altro grande magnate Larry Ellison. In questi giorni questa controversia sembra aver dato un lume di speranza agli amanti della vela di tutto il mondo. Abbiamo chiesto proprio al portavoce italiano di Alinghi, Max Procopio, di fare il punto sulla situazione così intricata a livello processuale. Sentiamo. C'è stato forse un punto fermo, almeno speriamo, cioè l'ennesima sentenza, se vogliamo, della Corte d'Appello di New York, nella quale però il giudice ha stabilito in maniera chiara che i due contendenti, chiamiamoli così, dovranno cercare di pervenire a un accordo sulla data di quella che ormai è sicuramente una regata su due multiscafi, cioè un uno contro uno sui multiscafi. Il giudice ha anche indicato chi devono essere i mediatori ufficiali per questo accordo. Qualora questo accordo non fosse raggiunto, la regata si svolgerà a febbraio del 2010 per decisione del giudice. Allora, dottor De Leo, finalmente abbiamo una data, febbraio 2010, abbiamo due sfidanti, probabilmente tre, adesso ne parliamo. Insomma, la Coppa America sembra essere uscita dal buco nero in cui era caduta. Ma come si è passati dal successo di Valencia, che anche voi come allora team italiano più 39 e col circolo Vela Garniano avevate vissuto da protagonisti, come si è passato da quel successo alle aule dei tribunali? Ma io penso innanzitutto che bisogna dire che la Coppa America nel 2007 è stato uno dei più grandi successi a livello mediatico. Ricordo due numeri soltanto che vi danno un po' la dimensione di quello che è stato Valencia America's Cup 2007. 770 milioni di telespettatori a livello mondiale, quindi nella top 3 degli eventi più seguiti con il campionato mondiale di calcio, la Formula 1, e 6 milioni e mezzo di visitatori all'America's Cup Harbor proprio a Valencia. Credo che nelle intenzioni sia di Bertarelli che di Larry Ellison ci fosse in primis l'interesse a continuare su questa strada e a rendere la Coppa America ancora più affascinante di quello che è stato. Sicuramente ci sono state delle querelle legali, ma il punto di arrivo è che questa forse sarà la sfida più affascinante in assoluto, perché sarà per la prima volta corsa con questi multiscafi da 90 piedi che sono circa 27 metri al galleggiamento. Pertanto penso che, se è vero che è venuto a soffrire per un paio d'anni il punto di landing o di soft landing, è assolutamente positivo. Febbraio 2010 vedremo la location, noi siamo pronti anche nel febbraio 2010 essere in acqua con il nostro catamarano. Che imbarcazioni vedremo in acqua in questa Coppa America? Dei giganti del mare, in poche parole, ma dalla tecnologia sofisticatissima e leggerissima alla fin fine. Trovo che sia fondamentalmente la sfida più affascinante, perché nessuno di noi ha visto in acqua, in una match race, catamarani o trimarani di queste dimensioni, e sotto il profilo strutturale, tecnologicamente, sono veramente, come direbbero gli americani, un quantum leap, un salto generazionale. Le do soltanto due punti di riferimento. In passato i grandi team si sono sfidati sulla Coppa America intorno alla metà degli anni Ottanta, alle famose sfide del Moro di Venezia, poi successive contro gli americani di Bill Koch. Il grande ruolo l'hanno avuto chiaramente i sistemi di simulazione utilizzando il calcolo numerico e quindi grande potenza di calcolo. Nella sfida che Blackmagic vince contro gli americani portandosi la Coppa in Nuova Zelanda sono le Workstation. Oggi le devo dire che noi per progettare la nostra barca abbiamo bisogno del cloud computing, che sono questi sistemi di massive parallel computing senza i quali non saremmo in grado nemmeno di affrontare il progetto strutturale. Mondo della grandissima tecnologia, quello su cui si discute e che ha portato tutti in tribunale alla fine è però il famoso deed of gift, cioè l'atto di donazione. In poche parole, per capirci, il regolamento che governa la Coppa America a partire dal 1887. Allora, dietro ci sono grandi interessi in gioco, perché ad esempio il vostro budget per tentare questa sfida a quanto ammonta? È 28 milioni di euro il nostro budget. A Linghi e Oracle probabilmente qualche milioncino in più. Assolutamente ce lo mettono. Sì, il problema è che le regole sono dettate da questo testo che risale al 1887. Di fatto tra Linghi e Oracle, dottor De Leo, si sono scontrate anche due diversi modi di intendere la Coppa, vero? In parte sì. Vorrei puntualizzare però tre aspetti. Il primo è che la prima Coppa America si corre, in realtà non è chiamata Coppa America, la Coppa delle 100 Guinee nel 1851. Quando il Royal Yacht Squadron la mette in palio e si presentano 15 challenger inglesi e un unico challenger americano che è America, che vince la Coppa e la porta da quel momento negli Stati Uniti. E per 132 anni nessuno riesce a strappare la Coppa agli americani. Quindi di per sé la Coppa America è l'evento più antico al mondo. E lo spirito originario era quella di una friendly competition between nations. Era una competizione amichevole fra nazioni. E da questo momento in avanti, soprattutto poi con la vittoria di Alinghi, il tentativo, credo, molto corretto da parte di Bertarelli e credo condiviso nelle linee di fondo anche da Larry Ellison, è stato quello di aggiornare la Coppa America ai tempi che noi stiamo vivendo oggi, dove c'è una tecnologia sempre più rapidamente in evoluzione, dove è fondamentale spingere molto sull'impatto mediatico di questo evento, dove è anche importante capire a fondo quali sono i nuovi format in termini di contenuti televisivi e non soltanto che possono essere sviluppati. Tutto questo probabilmente richiedeva un periodo di riflessione che ahimè non c'è stato, perché i signori di Desafio Spagnolo hanno subito presentato a Bertarelli la sfida come Challenger of Record e questo chiaramente ha innescato questa serie di questioni legali che a mio avviso però sono ormai in una fase di completa risoluzione. Infatti sì, Alinghi aveva accettato la sfida di Desafio Spagnol, da lì questa lunga querelle. Diciamo, tra i sostenitori di Oracle in questa causa c'è anche Mascalzone Latino, Vincenzo Norato, uno degli armatori entrati recentemente nella storia della Coppa, ma che già hanno scritto qualche pagina importante nella storia della Coppa America. E allora l'abbiamo interpellato per sapere come vede al momento la situazione della Coppa più prestigiosa della Vela Mondiale. Le ragioni, a mio modesto avviso, sono tutte dalle parti di Oracle. Si torna in acqua con questi mega mostri. Io ritengo che questa sia anche un'opportunità, è un'attrazione per tenere vivo l'interesse per la Coppa, in attesa che ci possa essere un evento multi-challenger che potrà avvenire soltanto quando l'economia mondiale si sarà ripresa, perché tutti quei team che dicono facciamo la Coppa America domani mattina sono certamente in malafede, perché gli sponsor in questo momento non esistono. Dal mio punto di vista il protocollo presentato dall'India all'epoca era un protocollo assolutamente unfair, antisportivo. Alinghi e la sua organizzazione si riservava di scegliere dai giudici di regata al comitato organizzatore, agli stazzatori, il che voleva dire non lasciare alcuna chance o possibilità di vincere agli sfidanti, una coppa senza interesse. Ma deve essere scelta la strada sportiva, perché nessun team in buona fede sportiva può avere l'intenzione di partecipare a un evento dove non c'è alcuna possibilità di vincere. Allora non è più una competizione ma è uno show, gli show francamente almeno a me non interessa. Allora, tra show business e romanticismo, tecnologie e vecchi regolamenti, mi sembra che il punto comune a tutti è il fatto che il futuro della Coppa America doveva essere una sfida con costi ragionevoli e aperta a più sfidanti in grado di competere per la vittoria. È un po' lo scenario che definisce anche ancora il portavoce di Alinghi, Max Procopio. L'ultima Coppa America, quella del 2007 appunto, vinta da Alinghi, ha prodotto 80 milioni di euro circa di utili che sono stati suddivisi tra tutti i partecipanti, ovviamente in quote diverse a seconda di chi ha vinto e di chi invece è arrivato ultimo. Quindi è stata un'operazione comunque di business, un'operazione di sport e di business, un'operazione moderna in linea con i tempi. Oggi come oggi, sinceramente, lo sport inteso così come sport dilettantistico non esiste più, perché non può esistere. Lo sport è anche tecnologia, ricerca, cioè tutta una serie di aspetti che poi hanno, diciamo, a parte divertito il pubblico, ma sono serviti dal punto di vista tecnico, costruzione delle barche alle vele, un po' quello che è la Formula 1. Tra l'altro Alinghi, nel riorganizzare la coppa successiva, quella che poi appunto è stata tagliata dalle sentenze dei giudici, aveva pensato proprio a una serie di misure di contenimento dei costi in relazione al fatto della crisi economica. Quindi dal nostro punto di vista riteniamo di aver fatto tutto quello che pensiamo sia giusto per continuare a lavorare per una Coppa multi-challenge e soprattutto per un tipo di Coppa America moderna. Allora, dottor De Leo, tutti guardano al febbraio 2010, tutti guardano la sfida tra Alinghi e Oracle, ma allora, insomma, voi di Greencom che c'entrate? O meglio, come potete entrarci? Noi siamo pronti sotto il profilo progettuale per accelerare il programma di sviluppo. Abbiamo un crash program che è già in corso in questi giorni, perché a tutti gli effetti sia la sentenza di New York sia alcune comunicazioni che ci sono giunte direttamente dal Defender hanno messo in chiaro che c'è una sfida che è in essere con una notice of challenge ufficializzata, che chiaramente ha bisogno ancora della risposta di BMW Oracle per essere completamente definita e formalizzata. Sotto il profilo del team, noi abbiamo la fortuna di avere con noi Angelo Glisoni, che è stato mondiale di Tornado, campione mondiale di Tornado. Abbiamo dei ragazzi giovani in Italia che sono dei talenti straordinari nei multiscafi. E sotto il profilo progettuale possiamo godere dell'appoggio sia dell'Università della California, del Computer Science Department, del Politecnico di Torino, dell'Università di Pisa, dove ci sono forse i maggiori esperti al mondo di fluidodinamica. E credo che per l'Italia sia importante affermare una presenza in assoluto, perché mai come in questo momento credo ci sia necessità di riconoscere che anche da noi ci sono i talenti, c'è il brain power, ci sono anche gli atleti per potersi esprimere ai massimi livelli con i colossi come quelli americani di BMW Oracle, con Larry Ellison, dei grandi team che hanno già vinto la Coppa in due edizioni come il team di Alinghi. A bordo campo, primo piano, sport. La fiaccola olimpica è stata accesa a Pechino dal presidente cinese Hu Jintao, che ha dato il via alla corsa che porterà il simbolo delle Olimpiadi in 5 continenti. La fiaccola, arrivata dalla Grecia, è stata accolta con una cerimonia in piazza Tiananmen. Un massiccio servizio di sicurezza composto da migliaia di poliziotti in divisa e in borghese ha assicurato che non si ripetessero a Pechino le proteste condotte in Grecia da un gruppo di attivisti per i diritti umani. Manifestazioni sono state annunciate da attivisti tibetani a Londra, Parigi, San Francisco, New Delhi. Eh sì, ve lo ricorderete di certo quanto era stato tormentato il viaggio della fiaccola olimpica verso Pechino 2008. Le proteste a favore del Tibet nelle grandi capitali europee, negli Stati Uniti, poi gli inviti al boicottaggio dei giochi cinesi. Prima di Pechino era stata la staffetta verso i giochi invernali di Torino 2006 ad essere ostacolata dai manifestanti anti-TAV in Val di Susa e da altre proteste sparse per l'Italia. Scene che ora non vedremo più, perché il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso che, da Vancouver 2010, la staffetta della torcia si svolgerà solo nel paese ospitante e non più da Olimpia in Grecia, dove la torcia viene ritualmente accesa, attraverso i 5 continenti. Una decisione pragmatica, ma anche dal forte impatto simbolico. E allora a bordo campo ha provato a ragionarci un po' su. E dire che portarla in mano, toccarla, quella fiaccola, è davvero una grande emozione. Sentite Stefania Belmondo, pluricampionessa olimpica nello sci di fondo, che ha avuto l'onore di accendere il sacro fuoco come ultimo tedoforo a Torino 2006 e che ricorda così al nostro microfono quella notte magica. I innanzitutto quando Alberto Tomba, che poi tra l'altro è un mio grande amico, che io stimo molto, è entrato nello stadio. Ecco, quando l'ho visto entrare ho detto: oh mamma mia, tra un po' tocca a me, no? E poi quando comunque ho visto tutti gli altri che correvano con questa fiaccola e il passaggio da Deborah Compagnoni a me, quando ci siamo comunque guardate negli occhi, lei mi ha dato questa fiaccola, io sono partita. Ecco, il boato va degli atleti, l'entusiasmo della gente, ecco, in quel momento. E quella è una fotografia che non dimenticherò mai, che ho impressa nella mente, perché è un ricordo emozionante al massimo. Ma cancellata la staffetta, istituita in occasione dei giochi di Berlino del 1936, non si perderà anche l'alto valore simbolico di una torcia che attraversa tutti i continenti, testimoniando i più alti ideali olimpici? Sentiamo Ottavio Cinquanta, presidente della Federghiaccio Mondiale e uno dei membri italiani del CIO. Il valore simbolico di portare la fiaccola è stata un po' annacquato, questo valore, da iniziative non sempre proprio sociali o di questo tipo, ma piuttosto politicizzate. Veda quello che è successo per il Tibet a Pechino. Allora si è orientati a dire: facciamo una cosa all'interno del paese, che fu poi in pratica quanto fu fatto per Torino. Si partì dalla Sicilia, eccetera, si arrivò a Torino. È per evitare l'utilizzo della fiaccola a scopi propagandistici di ordine diverso da quelli sportivi. Ancora l'opinione poi di Stefania Belmondo. Sicuramente il fatto di passare per tutti i paesi, diciamo, della fiaccola olimpica, sicuramente è una cosa bella, una cosa entusiasmante per tutti quelli che aspettano questa fiaccola nei propri paesi. Però bisogna anche dire un'altra cosa: visto e considerato che organizzare un'Olimpiade è una cosa molto complicata, molto costosa, molto difficile, e visto che la sicurezza è una delle cose principali per l'organizzazione di un'Olimpiade, beh, se proprio la sicurezza viene messa un po' in pericolo, cioè se c'è questo problema della sicurezza, beh, allora secondo me il CIO ha preso la decisione sicuramente difficile, sofferta, ma la decisione giusta. Ora abbiamo in linea un ospite d'eccezione, Roberto Pagliuca, che organizzò la staffetta della torcia in occasione dei Giochi di Torino 2006. Beh, Roberto, davvero fu un viaggio travagliato quello della torcia da Olimpia a Torino, vero? Sì, dici bene Dario, purtroppo, per fortuna, per un certo punto di vista, è quello che accade a tutti gli eventi di grande successo, e quando un evento ha un successo così straordinario indubbiamente diventa anche un'occasione per poter inscenare delle proteste, e hai ragione nel dire che poi alla fine lungo la penisola abbiamo tirato a bordo, diciamo così, tutti coloro che nelle diverse zone d'Italia avevano voglia di utilizzarci come vetrina per protestare contro qualcosa. A volte addirittura ci ha affermato invece proprio il calore e l'entusiasmo della gente. Non sembra questa del CIO, non ti dà l'effetto di una decisione ragionevole, corretta, tutto quello che si vuole, ma magari forse un po' troppo nel segno del pragmatismo? Non spegne un po' i valori ideali che quella torcia e quella staffetta rappresentavano? Ma da un certo punto di vista forse sì, da un altro punto di vista in realtà forse con Atene prima e poi con Pechino, in realtà forse questo circuito così nei cinque continenti era diventata una cosa fin troppo grande e tutto sommato un po' poco coinvolgente per le persone. Io ricordo che ero a Roma, appunto, la mia città, quando abbiamo assistito al passaggio della staffetta per le Olimpiadi di Atene, perché stavamo già preparando il nostro evento. Ebbene, la partecipazione delle persone poi in questa toccata e fuga di un giorno soltanto in tante capitali distanti fra loro migliaia di chilometri nel mondo, alla fine è più un fatto mediatico che un fatto reale. Viceversa, fare la staffetta in un territorio straordinariamente ricco, poi è diverso in tutte le sue zone come quello nostro, alla fine significa davvero trascinare e coinvolgere in termini di partecipazione e entusiasmo. Quindi da un lato può sembrare una piccola sconfitta rispetto poi alle difficoltà pratiche. Dall'altro però mi permetto di dire che invece l'altro punto di vista potrebbe essere anche un recupero in termini di autenticità e di valori. Anche perché ammettiamo pure, al di là di ogni retorica o sentimentalismo, questa staffetta internazionale era diventata anche un gran bel carrozzone per gli sponsor. Questo che dice è vero, però è inconfutabile che un evento così impegnativo, così grande come quello che noi abbiamo organizzato per 3 anni, non l'avremmo mai potuto fare senza la partecipazione, il contributo e il supporto degli sponsor, che in realtà è vero hanno scelto una parte dei tedofori, però hanno anche attivato dei programmi per il reclutamento dei tedofori attraverso anche dei progetti interessanti che hanno coinvolto a loro volta atleti oppure le persone di età scolastica, per cui alla fine anche all'interno della quota sponsor c'erano comunque persone tra virgolette comuni. Avete evitato il rischio di fare una staffetta di amministratori delegati, insomma. Sì, ce n'è stato qualcuno, anche di amministratore delegato, però ci sono stati tanti atleti, insomma io ricordo che noi abbiamo avuto tutti i medagliati delle ultime edizioni delle Olimpiadi e ricordo ancora veramente come fosse vissuto oggi stesso l'emozione di questi atleti che chiamavo io personalmente a casa e quando gli comunicavo che comunque erano stati scelti per essere tedofori e quindi portatori della fiamma per Torino 2006. Per chi vive lo sport con quella passione, con quell'entusiasmo, con quella partecipazione è un traguardo assolutamente straordinario, al pari di una vittoria. Ecco, di queste telefonate che evocavi ce n'è una che in particolare ti rimane nella memoria? Forse la persona con cui ho vissuto più l'emozione è stato Stefano Baldini, perché noi abbiamo pensato di far partire il nostro viaggio della Fiamma Olimpica laddove si era concluso quello di Atene, in qualche modo idealmente, perché Stefano aveva vinto l'oro nella maratona ad Atene e quindi comunque ci sembrava un bel segnale di continuità, riprendere la proprio dove la staffetta si era in qualche modo interrotta, e con lui è stato il primo tedoforo, quello a cui l'allora Presidente della Repubblica Ciampi accese la torcia. Abbiamo vissuto davvero anche la fase proprio della preparazione, oserei dire fino alla vestizione, insomma eravamo insieme sotto il Quirinale a prepararci per la partenza la mattina di questo freddo 8 dicembre a Roma e beh, un bel momento sicuramente. Grazie allora Roberto Pagliuca, ci piace chiudere con un messaggio di speranza. Chissà mai che un giorno la staffetta olimpica possa tornare nel nome dei valori simboleggiati dai 5 cerchi. Sentite come la pensa proprio Stefania Belmondo. Ma io credo, beh, sicuramente eredità, sì, perché il fatto di dire si toccavano vari paesi, varie nazioni, ma vari popoli, anche culture diverse e così via. E chissà che magari un giorno con questi bei ricordi non si torni all'antico, cioè a quello che è stato fino ad oggi, quindi magari di ricominciare per i vari paesi. Magari è soltanto un periodo, è soltanto un momento, visto che è un momento talmente difficile non soltanto per magari per il mondo sportivo ma per il mondo in generale, allora magari anche questo è proprio solo un passaggio e poi chissà che non si ritorni un po' a quei tempi, a questi tempi. Poi comunque tanto non dimentichiamo che un'Olimpiade è sempre qualcosa di bello e bisogna guardare alla parte positiva dell'Olimpiade, quindi viva lo sport, viva tutti gli sport. Per A Bordo Campo di oggi è tutto. Un grazie a Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo che potete scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it e riascoltarci sul sito www.radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.